Letture di Radio 24. Scorso anno i ricavi ottenuti dalla musica digitale hanno superato quella dei supporti fisici. Stiamo passando dall'economia del possesso a quella dell'accesso, scrive Andrea Laffranchi in un articolo pubblicato su Style Magazine. Ma non tutti i musicisti apprezzano il cambiamento. La rivoluzione è già avvenuta. L'Italia non se n'è ancora accorta, ma la musica ha cambiato strada. Per la prima volta nella storia, nel 2014, gli introiti mondiali del digitale hanno raggiunto quelli dei supporti fisici. Le nostre canzoni preferite non stanno più in un disco, ma sono infilate nelle memorie dei nostri smartphone o ci arrivano direttamente da uno sterminato catalogo online. Nel 2014 l'industria discografica ha sofferto ancora un po', incassando globalmente 13,5 miliardi di euro, meno 0,4%. La notizia è che i ricavi ottenuti dai supporti fisici e dal digitale valgono entrambi il 46% del totale. Il rimanente 8% sono i diritti di riproduzione per l'uso della musica nei locali e le sincronizzazioni per spot e colonne sonore. L'Italia è ancora indietro. Per noi il fisico vale il 62% del totale, ma in alcuni paesi c'è già stato il sorpasso. Soffriamo il gap tecnologico dovuto alla scarsa diffusione della banda larga, ma con una penetrazione di smartphone fra le più elevate abbiamo grandi prospettive di sviluppo dello streaming, commenta Enzo Mazza, CEO di FIMI, la federazione delle case discografiche. Pareggio quindi, ma fra due squadre con passo diverso. Il mondo fisico si restringe, meno 8,1%, quello digitale cresce, più 6,9%. Doppia velocità anche all'interno della squadra digitale. Il download legale, quello da iTunes per intenderci, resta la fonte più importante di ricavi, ma perde terreno, meno 8%. A far mettere la freccia del sorpasso sono stati i servizi di streaming come Spotify, Deezer, Google Music Play e Ardio, più 39% in un anno. Il momento è epocale. Stiamo passando dall'economia del possesso a quella dell'accesso. Non spendiamo più i nostri soldi per possedere qualcosa da tenere nella libreria di casa o su un hard disk, ma per avere la possibilità di accedere a un catalogo. E le piattaforme di streaming, in cambio di 10 euro al mese, gli abbonati sono circa 40 milioni, o della pazienza di ascoltare un po' di pubblicità, ci offrono una libreria da oltre 30 milioni di canzoni. Fra le star c'è chi contesta la suddivisione della torta. Taylor Swift, l'artista che ha venduto di più nel mondo nel 2014, si è tolta da Spotify, la piattaforma di streaming più popolare. Credo che la gente debba sentire che c'è un valore per quello che un musicista crea, e su Spotify non lo sento, ha detto. Il supporto discografico ha perso valore perché la musica si ascolta gratis. Avrei preferito che nel 2015 altre cose fossero gratis. I musei, ad esempio, commenta Cesare Cremonini. Per altri lo streaming è il diavolo perché i ricavi sono sbilanciati a favore delle case discografiche e gli artisti intascano troppo poco. Non tutti sono contro. Viviamo in una fase di transizione e anche se sono nato con le cassette e poi mi sono buttato sui CD, sono a favore della digitalizzazione, dice Marco Mengoni. Ci stiamo dividendo in nostalgici e futuristi. Ma comunque la si voglia guardare, che sia digitale o fisica, la musica registrata fa guadagnare sempre meno. Il successo e il conto in banca di un artista dipende sempre più dai concerti. È l'attività live, il tesoretto di cantanti e band. Billboard, la più importante rivista di settore negli Stati Uniti, ha fatto i conti in tasca alle 40 star più ricche del 2014. In cima ci sono gli One Direction, quindi Katy Perry e Justin Timberlake. L'80,4% dei ricavi dei paperoni di pop e rock arriva dai tour. Le vendite coprono solo il 13,3% e lo streaming il 2,1%. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Andrea Laffranchi, Ma chi guadagna con la musica? Dal numero di luglio-agosto di Style Magazine. un misterioso fruscio che si trasforma di tanto in tanto in parole. Brandelli di notizie da una Radio 24 del futuro. Ci raccontano di come lavoreremo, viaggeremo, ci cureremo, spenderemo il denaro tra 100 anni o più. Sono Maurizio Melis, vi invito a Canale 24, Reportage dal futuro, ogni domenica alle 7:15 su Radio 24. Letture di Radio 24. In Italia il destino dei migranti dipende da 40 commissioni prefettizie che devono stabilire se hanno diritto di asilo in quanto profughi oppure no. Ma i loro tempi sono biblici e ogni commissione impiega in media 215 giorni prima di pronunciarsi. E se alla fine una commissione rifiuta una richiesta di asilo, il migrante può fare ricorso fino a 3 gradi di giudizio. Dal primo contatto alla decisione finale passano in media 4 anni e il costo per lo Stato può arrivare a 50.000 euro a persona. Per un migrante diventa quasi impossibile venire rimpatriato. Ecco perché attorno all'esodo e alla disperazione si sta sviluppando un enorme giro di affari che coinvolge politici corrotti e malavita organizzata. Esistono in Italia 40 incroci del destino che separano i perseguitati dagli altri stranieri in cammino. Ogni commissione chiamata a pronunciarsi sulle richieste di asilo è composta da 4 traghettatori d'anime che smistano umanità. Un viceprefetto, un funzionario di polizia, un rappresentante dell'UNHCR, le Nazioni Unite, e un esperto di migrazioni indicato dai comuni capoluogo. Dopo i migranti, i più spaesati sono loro. Fino a un anno fa le commissioni erano 20. Da gennaio sono raddoppiate. Un domani forse se ne potrebbero aggiungere altre 10, ma pure nell'amministrazione si naviga a vista, come sui gommoni. Il coordinatore nazionale ha rivelato in maggio al Parlamento le cifre di questi organismi da cui dipende l'esodo, il movimento o la stanzialità dei migranti. I richiedenti asilo sono infatti sospesi nei centri di accoglienza, quelli che lo Stato sovvenziona in media con 33 euro al giorno per ogni migrante. E si tratta di una spuma di liberi detenuti che, una volta fatta richiesta d'asilo in Italia, è costretta ad attendere la sua risposta come stabilito dai trattati. Nel 2014, su 63.456 richieste d'asilo, ne sono state esaminate solo 36.270, una su due. Così il 2015 è iniziato con un arretrato di 27.180 pratiche, che si è sommato alle 22.118 richieste formulate nei primi 6 mesi di quest'anno. Il nostro sistema prevede 3 tipologie di protezione: asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria. Nel 2014 ha respinto il 53% delle istanze. E se facile è stabilire se un siriano ha diritto alla protezione, diverso è per chi arriva dai paesi del Nord Africa, spiega Trovato. Diversamente dall'Italia, Francia, Inghilterra e Germania hanno previsto la possibilità di ricorrere contro la decisione di una loro commissione, ma hanno assegnato il riesame a un funzionario amministrativo che ha esclusiva competenza, scavalcando la giustizia ordinaria. Da noi invece, nel 2014, il 73% di migranti che si erano visti negare lo status di rifugiato sono andati da un giudice e costui ha autorizzato la loro permanenza in Italia. Magistratura democratica ha fatto i conti sulle commissioni territoriali di Siracusa e Catania, le più invase di richieste. A Siracusa il tempo medio di una commissione è di 12-18 mesi. Altri 12 mesi servono poi per la sentenza di primo grado in tribunale e altri 8 mesi per una sentenza di appello. A Catania passano 12-14 mesi per la commissione territoriale e 10 mesi per la sentenza di primo grado. Perfino l'Avvocatura dello Stato ha consigliato alle commissioni di non ingaggiare contenziosi dopo il primo grado. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Carmelo Caruso, Veni, Vidi, Vici, da Panorama, del 24 giugno. Secondo uno studio realizzato da Giancarlo Elia Valori, ogni immigrato che accetta di essere registrato come tale costa allo Stato circa 2.500 euro al mese, ai quali vanno aggiunti 30 euro più IVA al giorno per ogni straniero che richieda asilo politico. Non tutti, però, sono contenti dell'aiuto che ricevono. Sono arrivati in 26 davanti alla questura di Vercelli età compresa tra 18 e 30 anni, provenienti da Nigeria, Gambia, Senegal e Mali. Non abbiamo il wifi per comunicare con le nostre famiglie, hanno protestato i rifugiati accolti nel centro d'accoglienza di Albano Vercellese. Ci manca anche la televisione e l'acqua calda. Abbiamo un solo bagno. 5 profughi nordafricani, ospiti della casa dell'Immacolata Don Emilio de Roia, Udine, hanno incrociato le braccia davanti a zuppa di legumi e frittata. «Non ci piace», hanno urlato. La sera dopo, proteste ancora più vibranti quando sul tavolo sono comparsi pasta, una fetta di carne e patate. Chiedevano una doppia razione. Per riportare la calma, sono dovuti intervenire i carabinieri. Gli era stata offerta ospitalità dentro un albergo di Campiglia Marittima, in provincia di Livorno. Ma il gruppo di immigrati africani non è neppure sceso dal pullman. Dentro quella struttura vivono donne sposate. Non si può convivere con loro. E così è stato. Le autorità hanno dovuto trovare una nuova sistemazione. Hanno ottenuto quel che chiedevano, il permesso di soggiorno. Ma a quel punto dovevano abbandonare la struttura di accoglienza di Borzonasca in Liguria. Così 40 profughi del Mali hanno protestato occupando una strada. Prima di abbandonare il centro hanno chiesto una sistemazione alternativa e garanzie certe per il loro sostentamento. Hanno preparato dei cartelli con la scritta in inglese «Vogliamo cambiare sistemazione». Una trentina di profughi pakistani con qualche senegalese hanno protestato bloccando la strada tra Lizzola e Valbondione, nel Bergamasco. Si sentivano relegati in un piccolo paesino di montagna e chiedevano il trasferimento in città oppure in un centro più grande. Pasta al pomodoro, pane e uova? Noi questa roba non la mangiamo. Gli immigrati ospitati a Ponte nelle Alpi, Belluno, hanno preso i piatti e li hanno deposti sull'asfalto della strada, che hanno occupato per protesta. Poi hanno anche tagliato le gomme delle auto degli incolpevoli volontari. Pietanze diverse e vestiti nuovi invece di quelli usati offerti dai cittadini. Una ventina di profughi ospitati dalla Caritas di Crema in Lombardia hanno protestato fino all'arrivo della polizia. Più pollo e riso, oltre alla richiesta che venissero loro consegnati direttamente i 35 euro pubblici assegnati per l'accoglienza. Il riso è freddo e nelle tende della Croce Rossa fa troppo caldo. Così una trentina di profughi accolti a Bresso, nel Milanese, ha bloccato la struttura fino all'arrivo delle forze dell'ordine. I gestori del centro hanno fatto arrivare dei ventilatori e sul cibo hanno spiegato che è lo stesso che mangiano gli operatori. Erano in 10, 2 nuclei familiari, 8 adulti, 2 bambini. In Italia da un anno, con lo status di rifugiati ospitati nel centro di accoglienza di Bibione, in provincia di Venezia, hanno ottenuto il permesso di soggiorno ed erano quindi liberi e obbligati a lasciare la struttura. Ma prima hanno preteso una sistemazione alternativa. Gli è stato offerto un appartamento preso in affitto da un'associazione di volontariato, ma due di loro, di religione musulmana, si sono rifiutati di condividere la casa con ospiti cristiani. Hanno occupato un pullman, non volevano essere relegati in un agriturismo di Palmadula, frazione di Sassari, ritenuto troppo distante dal centro abitato. Gli oltre 30 migranti non si sono fatti convincere neppure dalla prospettiva di televisori e collegamento internet, nel frattempo installati per cercare di sedare gli animi. È la madre di tutte le proteste paradossali dei profughi accolti in Italia. Alcuni africani ospitati nella cooperativa sociale di Vittorio Veneto hanno protestato perché non riuscivano a vedere le partite della Coppa d'Africa, che in Italia è possibile ricevere soltanto con piattaforme TV satellitari o digitale terrestre, ma a pagamento. Era stata offerta loro ospitalità dentro il centro di accoglienza di Gradisca di Sonzo, ma 35 eritrei non ne hanno voluto sapere. Chiedevano una sistemazione più confortevole e dopo una notte passata all'aperto hanno ottenuto un albergo a 3 stelle situate nel semicentro di Gorizia. 7 giovani provenienti dal Mali hanno occupato la circonvallazione di Castellammonte in Piemonte per chiedere di essere trasferiti a Torino. Alla base della protesta il cibo, troppo diverso dalle loro abitudini alimentari, e la distanza rispetto alla città. Avete ascoltato la lettura dell'articolo Se l'immigrato vuole l'optional, a cura di Oscar Puntel e Maria Pirro, da Panorama del 24 giugno. Coltivare le verdure sottoterra? A Londra qualcuno ci sta provando. L'idea di per sé è semplice. realizzare coltivazioni per produrre cibo in modo sostenibile, senza emissioni di CO2 e senza dipendere dal petrolio o dai suoi derivati. State pensando agli orti urbani? A qualche forma di network di contadini che organizzano i mercati a basso impatto? Siete fuori strada. L'idea che è venuta a due londinesi, Rich Ballard e Steven Dring, è ben più radicale. Mettere in piedi una coltivazione idroponica che sfrutti unicamente l'illuminazione LED, 30 metri sotto il livello del suolo. Il progetto può sembrare assurdo a prima vista, ma ha una sua logica profonda e anche parecchi aspetti positivi. Riduzione delle emissioni di CO2, le verdure prodotte sono destinate unicamente a Londra, quindi il problema delle food miles non si pone e l'illuminazione a LED è tra le più sostenibili. Utilizzo di una quantità d'acqua inferiore del 70% rispetto a una coltivazione tradizionale. Sfruttamento di un'area dismessa e possibilità di coltivare senza utilizzare altro terreno. Ballard e Dring hanno trovato un vecchio rifugio antiaereo della Seconda Guerra Mondiale nel sud di Londra, che ha l'enorme vantaggio di mantenere una temperatura costante di 16 gradi per tutto l'anno, vicino alla stazione metro di Clapham North. L'hanno affittato per 25 anni e hanno iniziato circa 18 mesi fa la loro avventura. Su un'area di un ettaro coltivano per ora germogli di ravanelli, di piselli e senape a foglia rossa. La qualità è tale che lo chef Michel Roux, il suo ristorante Le Gavroche a 2 stelle Michelin, ha appoggiato il progetto e vi partecipa attivamente. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Nicola Ferrero, Orto Underground, dalla rivista Oxygen. Quando chiedete un preventivo per una protesi dentaria, fissa o mobile che sia, fate attenzione ai materiali che vengono usati. Il modo per scoprirlo c'è: farsi rilasciare una dichiarazione di conformità. In questa certificazione vengono riportate le caratteristiche della protesi, in particolare quale tipo di metallo c'è alla base della ceramica. È importante. Leghe come il nickel possono provocare allergie, mentre metalli nobili potrebbero essere più indicati per alcuni pazienti. Se un cliente chiede una dichiarazione di conformità, il dentista deve fornirla, dice Fabio Carboncini, presidente dell'AIOP, Accademia Italiana di Odontoiatria Protesica. Purtroppo la legge non obbliga i dentisti a rilasciarla spontaneamente. Così succede che alcuni pazienti siano soddisfatti di un preventivo che non li fa spendere troppo, senza sapere che il prezzo basso deriva dalla qualità scadente delle leghe utilizzate. La cosa migliore è essere sicuri che il proprio organismo possa tollerare certi materiali. Nel dubbio, meglio optare per metalli puri, anche se il costo potrebbe essere 7-8 volte maggiore rispetto a un laboratorio low cost. I dentisti dovrebbero rilasciare in ogni caso la dichiarazione di conformità per chiarezza e trasparenza nei confronti dei pazienti e per dimostrare di essersi serviti di un laboratorio odontotecnico che adotta procedure e materiali di qualità. Avete ascoltato l'articolo «Dottore, mi mostra il certificato?» da Panorama dell'8 luglio.